I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. I dati sulla crescita economica europea diffusi ieri da Eurostat e relativi ai primi tre mesi dell'anno sono per l'Italia una conferma, e si potrebbe aggiungere purtroppo una conferma, perché viene confermato che cresciamo la metà rispetto alla media europea. L'area euro cresce dell'1,7%, l'Italia dello 0,8%. Di positivo c'è sicuramente la crescita acquisita, ossia di quanto cresceremo comunque quest'anno, anche se non dovessimo più crescere nei prossimi trimestri, 0,6%. Ma resta la delusione per il confronto con gli altri paesi. Cresciamo meno di Spagna, ovviamente di Germania, ma anche del Portogallo e della Polonia. L'unico paese che ha una crescita simile alla nostra per ora è la Francia. Presto per dire che cosa ha contribuito e che cosa invece è mancato all'appello, ma da una prima analisi buono è stato il contributo della domanda interna e quindi la componente nazionale. Negativo invece quello della componente estera, ossia la differenza tra quanto abbiamo esportato e quanto abbiamo importato. In realtà questo è dovuto a un aumento delle importazioni come conseguenza anche di un aumento dei consumi interni, ancora però non soddisfacente. Vedremo e avremo modo di analizzare meglio quando i dati saranno scorporati, ma vi è un terzo aspetto che si nota fin da subito. Continua a mancare l'appello la componente degli investimenti pubblici, nonostante il debito non sia certo sceso. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Per nulla scoraggiati dalle inchieste internazionali per scoprire chi sono gli hacker che con i loro virus hanno paralizzato quasi la metà dei computer del mondo, certamente 100 paesi non sono una cifra esigua, gli investitori stanno continuando a investire miliardi sulla criptovaluta e sulle tecnologie collegate a questo nuovo mondo in cui la finanza e il denaro diventano totalmente virtuali. Il Bitcoin, proprio la valuta, la criptovaluta che era la base del riscatto chiesto dagli hacker, è salita oggi a 1809,30 dollari, un guadagno incredibile se si pensa che all'inizio dell'anno era 1000 dollari e 4 anni fa quotava poco più di 40 centesimi. Pura speculazione? Febbre da bolla speculativa? Ci sarà un po' di tutto, sicuramente anche chi vuole investire denaro su attività rischiosissime, ma è anche disposto a perderlo tutto insieme. Per i risparmiatori l'importante è rimanere con i piedi per terra, il denaro virtuale sta muovendo soltanto i primi passi, i regolatori non riescono ancora a mettersi d'accordo per proteggere in un modo uniforme gli investitori mondiali. La regola quindi è prudenza, stessa attività, stesso rischio, stessa regolazione. Questo vale per le autorità, ma vale anche per chi si avvicina a questo mondo della tecnofinanza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.